известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. It is, as throughout all Alaska, that big, wild, good life teeming along the road that is north to the future. That's what we get to see every day. Now, what the rest of America gets to see along with us is in this last frontier, there is hope and opportunity, and there is country speranza pride. E opportunità nella nostra frontiera. Questa è la voce che ha destato tante passioni e tante antipatie praticamente in contemporanea. È la voce di Sarah Palin. Queste sono storie di gente che va e gente che viene in un fine settimana di piena estate, e se si va, se si ha voglia di andare su fino al confine, ai confini del nord, no? Fino all'Alaska, ci si sarebbe ieri imbattuti in Sarah Palin, che come promesso ha tenuto il barbecue, perché lì le cose si fanno attorno a un barbecue, il barbecue di addio al suo posto di lavoro da governatore di quello stato. Adesso si sa che Sarah Palin certamente scriverà un libro autobiografico, sicuramente sarà ospite in un numero infinito di talk show televisivi, ma di fatto lascia anticipatamente la poltrona di governatore dell'Alaska e al suo posto subentra il suo vice, che si chiama Sean Parnell, e sul futuro di Sarah Palin cala in un certo senso il mistero, anche se i media americani continuano a vivisezionare le sue opportunità, le sue possibilità e soprattutto la sua credibilità. I dati per ora non sono incoraggianti al picnic di addio, anzi ai picnic di addio, perché ne ha tenuti diversi a Anchorage, Fairbanks, nelle principali città dell'Alaska, piccole città cittadine. Comunque c'erano in tutto circa 5.000 persone. Un sondaggio ha accreditato nei giorni scorsi solo del 40% dei consensi, stiamo parlando di credibilità politica, Sarah Palin. Il 53% degli americani, che è tutto sommato una percentuale non trascurabile, ha detto che invece non la può proprio vedere. Lei ha fatto una conferenza stampa e se n'è andata. Ha detto che adesso vuole studiare, vuole lavorare, ha in testa l'idea di fondare un nuovo partito conservatore americano, capace di interpretare la volontà, i desideri, la visione di una America conservatrice che si sente tutto sommato tradita dai fat cat, no? dai gatti grassi, insomma dai panzoni, dai baroni, chiamateli come volete, del partito repubblicano. L'opposizione, che poi è quella che governa, non è che per adesso se ne dia molto per inteso. C'è stata ieri una intervista alla CNN di David Axelrod, che è il principale stratega e consulente di Barack Obama, che ha fatto lo snob e anche un po' l'antipatico e ha detto: francamente nelle mie conversazioni politiche si parla ben poco di Sara, per non dire mai, del suo futuro. Se vuole candidare, si dipende da lei, io non ne ho idea, non mi pongo il problema. Se suo marito Todd ne sa qualcosa, non ha voluto dircelo, staremo a vedere. In sostanza la ignorano. Io personalmente sono convinto che Sarah Palin abbia fatto invece una mossa intelligente. Adesso la profondità politica di questa mossa è tutta da vedere, tutta da giudicare e tutta da comprendere. Quello che è un fatto certo è che, nonostante ormai siano passati diversi mesi, 8 mesi dalla sconfitta nelle presidenziali, il Partito Repubblicano e in genere l'America conservatrice non ha espresso nulla di credibile dal punto di vista delle personalità leaderistiche capaci di opporsi, per chi voglia opporsi, per chi non condivida la visione del presidente Obama, all'attuale amministrazione in corso. Sarah Palin incarna, con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, una America diversa, che è quella che un celebre libro di un paio di giornalisti Economist qualche tempo fa battezzò la Right America, l'America di destra, ma anche l'America che crede in una propria giustizia, in una sua etica. E Sara ne è in un certo senso il prodotto, ma potrebbe diventarne anche il pilota. Deve però adesso letteralmente costruirsi, strutturarsi come personaggio, come credibilità e come programma, come piattaforma. A lei riuscirci, certamente a lei giustamente abbandonare fare un governatorato per studiare senza eccedere in programmi televisivi che finirebbero per banalizzarne anche l'impatto, raccogliendo i soldi necessari, ma soprattutto circondandosi dei consulenti e personalmente approfondendo le questioni centrali in modo tale di farsi trovare pronta, se non nel 2012, già nel 2010, quando sarà necessario, fra un annetto, essere già pronti a scendere in campo. E fin qui per chi se ne va, invece, come vi ho detto, c'è anche chi resta e lavora. Abbiamo appena visto poco fa sulle televisioni inglesi e americane Barack Obama indirizzare un appello alla Cina, un appello di cooperazione per la questione del clima, per la minaccia nucleare, per la crescita economica. Sta per andare in scena un vertice sul dialogo strategico economico da oggi a Washington, e Barack Obama lo ha aperto in modo estremamente empatico nei confronti dei rappresentanti cinesi. In sostanza si torna a essere in due a contare e a comandare, sono cambiati i nomi ma c'è sempre un bipolarismo ormai evidente alla guida del mondo. Cina e Stati Uniti devono trovare il maggior numero possibile di luoghi comuni nei quali confrontarsi e cooperare. Obama ha parlato di un futuro energetico pulito, ha parlato di cooperazione per una crescita economica equilibrata e sostenibile, ha chiarito che le scelte che si fanno all'interno dei confini di una nazione si riflettono in tutta l'economia globale. Insomma, ha detto cose che hanno tutta l'aria di essere buoni propositi. Vedremo se poi da questo vertice fra i due che contano uscirà fuori qualcosa di pragmaticamente valido. Si è anche sedata per la serie gente che nel weekend ha avuto da fare la questione razziale, la piccola ma non tanto piccola questione razziale sollevata dalla presa di posizione del presidente nei confronti dell'arresto del professore Louis Gates a Cambridge, Harvard, il professore afroamericano arrestato dalla polizia mentre cercava di entrare nella sua legittima abitazione di cui aveva dimenticato le chiavi. Molto rumore, forse per nulla, ma non forse proprio per nulla, perché Obama se ne è uscito in modo virulento nei confronti della condotta della polizia del Massachusetts, della polizia di Boston. Poi ha fatto velocemente marcia indietro, sono di un paio di giorni fa le dichiarazioni in cui sosteneva che si è pentito, che avrebbe dovuto calibrare le parole in modo diverso, quella parola comportamento stupido rivolto alla polizia che comunque aveva ormai attivato una procedura nei confronti di un cittadino che stava dando insomma un po' di pazzo, erano troppo, troppo severe. Poi però ha avuto, come spesso capita in questi casi, ha avuto l'idea buona Barack Obama, la più semplice: invitare il poliziotto in questione, questo sergente James Crowley della polizia di Cambridge, e il professore emerito di Harvard Henry Louis Gates a bersi una birra, un birrozzo anzi, gli avrà detto, non so come si dica birrozzo in americano, comunque venite alla Casa Bianca, ci facciamo un birrozzo davanti alla partita in braghe corte, adesso cerco un po' di banalizzare, e risolviamo il problema. Sembra un tantino tarallucce e vino, però è piaciuta molto ai media americani questa proposta pacificatrice e anche questa capacità di saltare, come dire, dal formale poi al personale. Non a caso il professore ha subito approvato l'iniziativa, anche il poliziotto si è detto grato della telefonata ricevuta da Obama. È chiaro dalla conversazione che il presidente rispetta la polizia, ha detto il sergente Crowley, e le situazioni pericolose e difficili che si presentano ogni giorno agli agenti. Apprezzo il suo interesse, la disponibilità di considerare le proprie affermazioni sul dipartimento di polizia di Cambridge, e insomma al costo di una una cassetta di birre sul prato della Casa Bianca col mega schermo acceso, forse la questione è sanata. Certo che razza e Obama è un paradigma sul quale credo nei prossimi mesi spenderemo altre parole. interessante l'apparire nello scenario dell'amministrazione americana di una nuova questione. C'è chi accusa Obama e i suoi di mettere troppa carne al fuoco e di fare in questo senso un certo, se permettete la parola, casino. Di fatto alcune promesse erano state spese nei confronti dell'elettorato e le promesse principali recitavano occupazione, sanità, educazione. Occupazione e sanità, come sapete, sono al centro del più torrido dibattito di questa estate politica americana e adesso si comincia a parlare anche seriamente di educazione, ovvero di scuola. La Casa Bianca rilancia la sfida al sistema educativo statunitense, chiede ai professori uno sforzo significativo per dare a tutti gli americani l'istruzione necessaria a poi poter realizzare il famoso, ormai un po' malconcio, sogno americano per avere scuole più efficienti. Washington stanzia 4 miliardi di dollari. Richiederanno un impegno però tutti questi quattrini da parte degli istituti che dovranno alzare significativamente il livello dell'educazione primaria e secondaria negli Stati Uniti. In buona sostanza si danno soldi laddove si lavora bene, si lavora seriamente e i risultati si vedono. Gli stipendi dei professori saranno basati anche sul rendimento degli studenti espressi dalle loro classi, dalle loro scuole. Qui si tratta di ottenere migliori risultati e sviluppare negli studenti capacità in grado di risolvere i problemi e pensare in modo creativo, avrebbe detto Barack Obama a riguardo. La gara parte oggi, sto lanciando una sfida ai governatori, ai consigli scolastici, ai presidi, professori, famiglie e studenti. Questa sfida non è legata alla politica, all'ideologia, a gruppi di interesse, ma si basa su un principio: se gli stati siano o meno pronti a fare ciò che serve per e nell'interesse dei ragazzi. E per concludere qualche numeretto, non vi parlo di Sepp Blatter che è andato da Obama a chiedergli interessano mondiali di calcio, perché credo che la questione sarà ampiamente, come dire, esplorata dai giornali sportivi. Di fatto il presidente della FIFA discuterà con Obama di una possibilità, una possibile candidatura, nuova candidatura del paese dove il calcio non esplode mai, per i mondiali del 2018 o 2022. Ma invece vi dico che il gradimento di Obama, che per la prima volta è sprofondato sotto il 50% negli Stati Uniti, soprattutto a causa del dibattito sulla questione sanitaria, resta invece altissimo. L'immagine di Obama e dell'America, dell'America attraverso Obama nel resto del mondo. C'è un enorme sondaggio molto interessante curato dall'Istituto di Ricerca Pew, il forse più prestigioso d'America, condotto in 25 paesi, 5 continenti. E viene fuori che l'immagine americana, ad esempio, in Europa è saltata su dal 75% al 42% di gradimento, che in Asia, solo in Pakistan, dove la fiducia era già bassissima, il gradimento per gli USA è in calo, in tutti gli altri paesi dell'Asia è in netta ascesa, in Cina dal 41 al 47, in India dal 66 al 76, in Indonesia addirittura dal 37 al 60. Obama in un certo senso continua a vendere, se possiamo dire così, all'estero. Adesso il suo problema è avviarsi a un rovente inizio di autunno con questioni sostanziali sul tavolino, con gli argomenti giusti per farcela. Come dice un famoso spot, anzi lo posso dire, tanto è un prodotto non italiano, la pizza, no? La Domino Pizza è quella che always deliver, viene sempre consegnata, voi la ordinate, poi vi potete mettere in poltrona, la Domino Pizza arriva. Ecco, Obama deve fare così, gli sono state ordinate, si è anzi ordinato solo alcune cose, adesso deve deliver, deve consegnare il suo prodotto. Entangled in things, he's been squandering, and we don't. c'è una notizia che entusiasma letteralmente i siti informativi americani, appena spuntata pochi minuti or sono. Credo fosse una di quelle notizie che aspettavano da un bel pezzo, se è vero che il Ben Bernanke, no, il capo della Federal Reserve, dice che i today's pain is tomorrow's gain, le pene di oggi sono i guadagni, i successi del domani. C'è tutta una proverbistica anche italiana che potremmo applicare. Ma se non ti sembra abbiati gli ultimi, soffri oggi e ripari, insomma, qualcosa, la formica, la cicala, tutto il resto. Ma di fatti invece c'è un numerino che piacerà assai agli operatori americani, credo non solo a loro, ovvero questo 11% in positivo di saldo positivo nelle vendite di nuove case in America durante il mese di giugno, livello più alto dallo scorso novembre, quindi finalmente un segnale, come dire, tangibile di una inversione di tendenza. Su questa notizia arriviamo per l'appunto al nostro spazio globale di notizie. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Così Obama può andare a parlare con i cinesi, come dire. Eh sì, Obama, un po' più sollevato. Obama, diciamo, sta parlando con i cinesi e sta dicendo anche cose da un lato tutt'altro che sobre. Per esempio ha detto che la relazione tra Stati Uniti e Cina darà la forma al XXI secolo, quindi è abbastanza chiara la direzione che già Bush, ma anche Obama, sta prendendo, insomma, per il corso di questo secolo. Poi però per inaugurare questo bilaterale, che ormai è diventata una consuetudine tra Cina e Stati Uniti, credo l'abbia inaugurata proprio Bush, e le due parti si incontrano almeno un paio di volte l'anno, e possiamo a tutti gli effetti chiamarlo un G2, questa parola che tra l'altro oggi Federico Rampini, un interessante editoriale su Repubblica, definisce molto irritante per noi europei. Questo G2 non piace molto, questo scontro, incontro tra i due giganti che in qualche modo tagliano fuori l'Unione Europea. Comunque tant'è, 150 cinesi, delegazione bella nutrita, possiamo dire faraonica, si stanno cimentando a Washington con la controparte americana. Ebbene, Yao Ming, anzi Obama ha citato Yao Ming per un po' sdrammatizzare, se vogliamo, anche noto situazione. Filosofo del terzo secolo, insomma, ha utilizzato una piccola malizia di quella che è la sua poi nota abilità di oratore per arruffianarsi, diciamo così, la parte cinese. Ha detto ho imparato molto da Yao Ming come nuovo presidente, come tifoso di basket, ho imparato appunto da Yao Ming che una volta ha detto: non importa se sei un giocatore esperto o se sei agli inizi, comunque hai bisogno di tempo per adattarti al gioco di squadra. Per questo, a partire dal confronto di oggi così costruttivo, sono fiducioso che insieme faremo, come ci ha detto appunto il nostro Yao Ming. Mi è piaciuta questa dichiarazione prudente, ma anche un po' ruffiana questa. Beh, infatti è molto maliziosa del nostro. Uno alto 2,25 m la deve mettere dentro, no? A proposito di Cina, tra l'altro Yao Ming ha deciso, visto che siamo ne approfitta, ha deciso di operarsi, cari ascoltatori. Addirittura Houston apriranno una roba contrattuale mai vista in America, cioè riassorbono i soldi che dovevano dare a Yao Ming per permettergli di operarsi e ma poter qui investire. Si parla di tempi di un anno di stop. Yao Ming nel frattempo si è comprato la squadra di Shanghai dove aveva esordito tanti anni fa. Dove secondo me rischia seriamente di finire. Perché l'operazione deve fare molto seria. Si è consultato con l'altro gigante straniero della NBA, il Gauchkas, che ha fatto la stessa ricostruzione del piede, perché poi di quello si tratta, di non mettere dentro pezzi di ossa. Il lituano gli ha detto vai che funziona, e Yao Ming ha preso la decisione di farlo, quindi i suoi fan per quest'anno dovranno pazientare, non lo vedranno sul campo, ma così facendo si spera di vederlo invece nel campionato prossimo. E sempre guardando a est, guardando a oriente, arriva una notizia formale, però con un contenuto. Per la prima volta in 60 anni sarebbe stato uno scambio diretto di messaggi tra i presidenti di Taiwan e della Cina, ulteriore segno di distensione tra le due capitali. Secondo un comunicato diffuso dal governo di Taipei, il presidente cinese Hu Jintao avrebbe inviato un messaggio a Ma Ye-yu in occasione della rielezione alla presidenza del Partito Nazionalista, nel quale si auspica proficua collaborazione tra Partito Comunista Cinese e Partito Nazionalista di Ma. Insomma, si stanno poco a poco avvicinando. Mentre tutt'altro che sereno il clima attorno allo Xinjiang, questa regione martoriata che è rimbalzata agli onori della cronaca in queste ultime settimane, arrivano proprio oggi le ultime parole di fuoco davvero roventi del numero 2 della regione cinese, del Partito Comunista dello Xinjiang, che ha promesso, insomma, che userà il pugno di ferro per arginare nuovi disordini. Io leggo testualmente le sue parole riferite dall'Agenzia Nuova Cina, direi che ogni commento è superfluo, perché ha detto Nur Bekri, questo è il suo nome: continueremo a schiacciare risolutamente le manovre aggressive del nemico e impediremo con il pugno di ferro i crimini violenti, infiltreremo e annienteremo la rete che ha pianificato gli scontri dietro le quinte, rinforzeremo seriamente il controllo generale sulla popolazione e stroncheremo sul nascere. Bene. Spezzeremo le reni, sembrava un tipo elastico. Le minacce potenziali alla sicurezza. Come si chiama questo signore? Si chiama Nur Bekri ed è governatore, vice governatore dello Xinjiang, quindi emissario tipo, di Pechino. Tipo elastico, di buon carattere, come avete capito, nelle sue mani siamo tutti più tranquilli. Cielo cupissimo sullo Xinjiang. Va bene, Israele tra poco in scena in una serie di così di punti della situazione che faremo questa settimana. Insomma, in questa settimana di fine luglio, dopo aver seguito per tutta la stagione una serie di storie, una serie di scenari, per meglio dire, e le relative evoluzioni, cambiamenti, aggiustamenti, in certi casi anche molto profondi, in altri casi invece rimasti così, no, in sospeso, come sull'orlo di un baratro che avrebbe potuto portare anche a cose ben più gravi. Insomma, questa settimana ce ne andiamo un po' in giro a vedere come stanno le cose, magari le cose in alcuni di quegli scenari che nel frattempo sono un po' scomparse dalle prime pagine dei giornali o appaiono a intermittenza. Si è perso un po' il filo, per un po' ci sembrava di aver capito un'evoluzione, poi invece tutto si è da un lato fermato, paralizzato, oppure ha preso un andamento a singhiozzo che scusate, come dire, la volgarità dell'espressione, ma ci sembra particolarmente adatto a descrivere lo scenario israeliano, i colloqui di pace in Medio Oriente, l'evoluzione dei rapporti tra la nuova amministrazione alla Casa Bianca e il nuovo potere israeliano. Le cose vanno avanti, sinceramente, a rilento, e più che altro mi sembra sia tutto un succedersi di inviti con tono vagamente di ammonizione da parte della Casa Bianca, di risposte piccate da parte di Israele, di viaggi, incontri, promesse a venire e poca concretezza. Di sicuro sappiamo che Barack Obama dice di voler imprimere ora una accelerazione alla ripresa dei colloqui, che è arrivato nella regione medio orientale il segretario della difesa Robert Gates, che dalle stesse parti si muove in questo momento l'inviato di Washington per il Medio Oriente George Mitchell, che domani arriverà il consigliere per la sicurezza nazionale e il generale James Jones, che a più riprese Hillary Clinton, tornata finalmente in piena attività, si ripromette di prendere posizione personalmente, attivamente sullo scenario, e che tante cose dovrebbero cominciare di fatto. I vertici militari israeliani proprio questa mattina in Cisgiordania hanno reso pubblico un rapporto sugli insediamenti ebraici in questo territorio, che conferma come più di 300.000 coloni israeliani vivano attualmente nella Cisgiordania occupata. 300.000 non è una cifra da poco, non è un numero di persone che possono essere spostate o condizionate più di tanto con un piccolo sforzo. Cerchiamo un po' di capire, insomma, che aria tira, fermo restando che di poco fa una minacciosissima agenzia Reuters che parla di minacce degli Hezbollah verso Israele nel caso Israele dovesse prendere qualche iniziativa su Beirut, ma facciamo ordine. Parliamo con Maria Grazia Enardu, che sempre ci accompagna in queste analisi, è una ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, ci ha dato tante indicazioni per decifrare il complicato scenario elettorale israeliano. Salutiamo Maria Grazia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Maria Grazia, tu ci hai raccontato, ci hai spiegato, ci hai descritto personaggi che abbiamo imparato a conoscere anche attraverso di te, per esempio l'emersione di questo strano Lieberman diventato ministro degli esteri, ma poi che cosa è successo? È in vacanza permanente, perché noi lo cerchiamo sulle agenzie e non lo troviamo mai, dovrebbe fare il suo mestiere, ma cosa è successo a Lieberman, per esempio? Prima di dire questo vorrei pregarvi di tenere l'audio alto, perché io sento spesso molto basso. Sarà fatto, facciamo comunque il possibile. Lieberman è un po' in sordina rispetto a quello che è diventato il ministro degli esteri ufficiale, cioè il ministro della difesa Ehud Barak, che è quello che tiene i maggiori contatti con gli Stati Uniti. Anche se a onor del vero Lieberman è andato una volta a metà giugno in America a incontrare Clinton, però non si è parlato di questa visita, che evidentemente era vista in sordina per tutta una serie di ragioni, perché l'uomo non è molto esportabile. Detto questo, queste saranno settimane, mesi dell'estate di profonda ristrutturazione dei rapporti tra Israele e Stati Uniti, di studio di soluzioni per quella che sarà da tutte e due le parti inevitabilmente una sorta di offensiva di autunno. Si parla, ci sono voci di un piano americano che potrebbe essere tirato fuori tra un paio di mesi, e poi tutto si giocherà tra la fine dell'anno e l'inizio del 2010 nella definizione di una nuova leadership palestinese che dovrebbe uscire dalle elezioni nel gennaio 2010, e a quel punto con due interlocutori gli americani potranno davvero affrontare l'argomento di un vero trattato di pace. La questione della Cisgiordania, perché emergono questi numeri e che significato bisogna attribuire? C'è un nascosto, forse neanche tanto nascosto, ammonimento, no, dietro questo manifestare il fatto che ormai ben 300.000 sono i coloni insediati, con tutte le conseguenze che ne potrebbero nascere? La La cosa più curiosa di questo numero è che sono dati pubblicati dall'esercito. I dati dell'ufficio di statistica israeliana a volte sono contestati per una serie di ragioni su cui non mi dilungo, però se c'è qualcuno che sa quanti sono, dove sono e che fanno, questo è l'esercito, che ha il compito di proteggerli non solo nelle città, che a volte sono città anche abbastanza grandi, 40-50 mila abitanti, ma anche e soprattutto nei cosiddetti avamposti, che sono quasi incontrollabili ma dove i coloni vengono sempre protetti. È un numero alto in confronto i palestinesi del West Bank, tutto compreso Gerusalemme Est, sono circa 2 milioni e 400 mila, ed è un numero però estremamente composito. Dentro c'è di tutto, da chi sta lì perché animato da fortissimi sentimenti nazionalisti, a chi sta lì semplicemente perché le case costano meno, se gliene danno una da un'altra parte certo, se ne va volentieri. E definire i numeri aiuta anche a definire la posizione di queste città e di questi insediamenti, e quindi a discutere realisticamente di quali possono essere abbandonati, perché devono essere abbandonati perché troppo interni nella Cisgiordania e nella West Bank, e quali invece devono essere tenuti, e quelli da tenere sono inevitabilmente i più vicini alla linea del 67, alla linea di armistizio prima dell'occupazione del West Bank, e quindi procedere nell'ambito di un piano di pace a uno scambio di territori. Israele terrebbe alcune aree talmente densamente popolate che non possono essere, certo, e cederebbe in cambio aree certo, o nel Negev o altrove per il futuro Stato palestinese. Per concludere, abbiamo aperto accennando a questo ritorno di attivismo e soprattutto il manifestarsi questi personaggi di gran nome, gran prestigio e si ritiene anche di un certo potere della amministrazione americana, che si stanno muovendo nell'area in questi giorni. Che cosa possiamo dedurre da questo manifesto interesse, da questa presenza, da questa intensa no, attività diplomatica americana con Gates, Mitchell, James Jones, Hillary Clinton? Che cosa dobbiamo aspettarci? Che questa volta la presidenza americana non lascerà perdere, come tante volte ha fatto la presidenza Bush per ben 8 anni, e che insieme al muoversi di questi diplomatici di altissimo livello, c'è la richiesta assoluta americana di congelare gli insediamenti, che va vista come modo di intendersi, cioè se gli israeliani faranno questo allora gli americani daranno fiducia, se non faranno questo si rischia di dover rivedere decisamente il rapporto tra i due paesi. Per concludere, abbiamo raccontato nei mesi scorsi il sofferto parto di un governo israeliano dalla tenuta non particolarmente stagna, diciamo così, e dalle intese forse non perfettamente saldate. Ecco, come stanno andando le cose alla prova delle prime settimane di lavoro, e soprattutto quale stabilità sembra garantire, Maria Grazia, questo governo? Il governo ha la stabilità di un'assenza di vere alternative, perché un ipotetico governo Libni al momento non è realistico. Però all'interno sia della coalizione sia dell'opposizione ci sono continui movimenti. In questo momento, per esempio, c'è un piccolo terremoto perché Netanyahu sta cercando di far passare una legge che permetta un più rapido sfaldamento di Kadima, del partito di Libni, perché in questo caso alcuni potrebbero affluire nell'Likud. Quindi Netanyahu tiene in primissimo piano i rapporti con gli americani, ma cerca anche di prepararsi sul fronte interno a quello che potrebbe essere uno showdown assai duro. Va bene, io ringrazio di questo aggiornamento Maria Grazia Enardu. Il segretario della difesa Gates, in visita in Israele, ha detto per l'appunto che l'amministrazione di Obama si attende entro settembre, proprio secondo quanto ha detto anche Maria Grazia. Una reazione da parte dell'Iran riguardo alle sue proposte, che in buona parte coinvolgono anche naturalmente certamente il futuro di Israele. Penso che il Presidente certamente preveda un qualche genere di risposta entro l'autunno, forse in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto Gates ai giornalisti, saldando per l'appunto problemi di provenienza diversa, che poi vanno a convergere su uno scenario comune, uno scenario che analizzeremo anche nei prossimi giorni in altri aspetti, in altre location. Toccherà man mano Afghanistan, Iran e poi gli altri scenari di crisi che in questi mesi a Jefferson abbiamo cercato di raccontarvi. She left a week to roam, your protector's coming home. Keep your secrets with you, girl, safe from the outside. You walk along the stream, your head caught in a waking dream. Your protector È circa un mese che abbiamo imparato, non dico tutti i giorni, ma quasi, a dare un'occhiata a che cosa succede in Honduras, no? È una cosa, se ci pensate, piuttosto stravagante. Insomma, sono gli staterelli centroamericani, le repubbliche bananas, no? Quelli dei colpi di Stato multipli, fanno parte in un certo senso della cronaca del secondo Novecento, ma poi si pensava che si fosse riusciti a stabilizzare la situazione locale. Invece quello che è accaduto in Honduras è diventato in un certo senso un tormentone quest'estate, perché ancora non trova una soluzione, la rimozione del presidente eletto Zelaya, la sostituzione con una giunta di golpisti guidati dal presidente di origine bergamasca Micheletti, le ammonizioni francamente neanche troppo convinte da parte della comunità internazionale, le proteste per fortuna solo raramente sfociate in qualcosa di seriamente violento, ci sono delle vittime ma il numero è molto, per fortuna, molto contenuto. L'estrema prudenza degli Stati Uniti d'America nel perseguire una via diplomatica e comunque nel tenersi lontano da qualsiasi interventismo, gli annunciati rientri un po' nell'onda del partiamo di Zelaya, a cui Micheletti ha detto: attento, se metti piede di nuovo in Honduras ti arrestiamo, e lui ha detto torno, ma poi non è che tornava proprio subito, poi finalmente è tornato, ma è tornato un po' a modo suo, ovvero ha trovato dalla Nicaragua una zona di confine nella quale poteva fare un po', insomma, il gioco dei tre cantoni, metteva il piede in Honduras, faceva una passeggiatina e poi riarretrava puntualmente in Nicaragua. Tutto ciò, scusatemi se lo dico, è uno scenario, insomma, che ha anche poi una sua involontaria ironia, perché così non si va né da una parte né dall'altra. Se è vero che arriva la notizia che Zelaya ha sconfinato nella nazione di cui era fino a un mese fa presidente un'altra volta, ma poi prontamente riarretrato in terra nicaraguense, è successo alla Las Manos, che è questo posto in Nicaragua al confine col Nicaragua, con l'Honduras, dove lui ha messo su addirittura un accampamento fatto fondamentalmente di giornalisti, gente che si sbatte per tirare giù il servizietto da mandare poi magari all'altra parte del mondo. Si sono messi lì, appena giunto al confine, a bordo della solita Jeep bianca con la quale ormai lo vediamo girare anche in qualche nostro telegiornale, Zelaya ha afferrato un megafono, ha rivolto un discorso alla folla di sostenitori, che però erano tutti giornalisti che stavano da quelle parti, ha ringraziato il popolo dell'Honduras per lo sforzo che sta compiendo contro i golpisti, uno sforzo che però ancora non si manifesta in una reale ribellione. Si è rammaricato del fatto che la moglie, la madre e alcuni dei suoi figli sono stati fermati a El Paraíso, una località honduregna vicino al confine, forse volevano incontrare il capo famiglia, e poi però è tornato in territorio del Nicaragua. Nel frattempo l'esercito honduregno sta assumendo toni più concilianti nei confronti di Manuel Zelaya, dice di essere forse disponibile a sostenere il piano del presidente costaricano Oscar Arias, un altro degli improbabili mediatori di questa crisi, che prevederebbe il rientro in Zelaya ma con alcune determinate condizioni. C'è un comunicato su un sito internet ripreso oggi dal quotidiano spagnolo del Paese, secondo il quale l'esercito ribadisce la sua subordinazione all'autorità civile e rispetto della Costituzione, ovvero dovrebbe sottomettersi al volere di Zelaya. Però intanto il governo de facto, quello che in questo momento guida Honduras, quello guidato Roberto Micheletti, avrebbe sottoposto la proposta di Arias alle differenti istituzioni del Paese e, come dire, si va perlomeno per le lunghe. Anche perché cercano di non mettere di mezzo l'America. Poi questa è l'idea di fondo, gli Stati Uniti d'America. Il presidente Zelaya infatti ha smentito di volersi recare martedì negli Stati Uniti per una serie di colloqui con l'amministrazione americana. A me non sono mica sicuro che poi lo ricevano, come dire, a tambur battente, no? Dice: ciao, ci ristanno gli honduregni di là. Questi hanno in questo momento cose più serie da fare, se è vero che Obama è alle prese con la rappresentanza cinese. E mi sa che quelli dell'Honduras devono aspettare in anticamera. Comunque Zelaya, che è uno che, come dire, ha una opinione piuttosto alta di sé, non so se l'avete visto in televisione, un signore con dei grandi baffi, un'aria molto così austera, ma anche una certa prosopopea, dice: se gli americani vogliono parlare con me, invino qui alla frontiera una delegazione. Insomma, la scena è un po' improbabile. Il capo della diplomazia di Washington, mobilitato sullo scenario honduregno, ha definito imprudente nel frattempo il tentativo di Zelaya di far ritorno in Honduras. Questa cosa del piedino dentro e fuori dal confine non contribuisce agli sforzi generali messi a punto per stabilire la democrazia e l'ordine costituzionale in Honduras, ha detto anche Hillary Clinton, che noi sappiamo, l'abbiamo raccontato più volte, ha pochissima simpatia per questo Zelaya e in sostanza gli sta dicendo: Manuel, per favore, fermo un attimo, adesso ci pensiamo, prima finiamo con la Cina, poi vediamo il tuo caso. Zelaya, su, vai. Anche perché, come vi ho detto, raccontavamo prima con Emiliano, c'è questo vertice di un interesse visibile, relativo, ma probabilmente che sotto traccia nasconde invece una volontà di trovare strategia e punti comuni piuttosto intensi e significativi fra Stati Uniti e Cina. I cinesi sono a Washington. Ritengo che siamo destinati a fare continui progressi su alcune delle più importanti problematiche del nostro tempo, ha detto Obama, che è una frase non significa assolutamente nulla, non fosse vero che alle spalle dei grandi capi poi ci sono fior di commissioni specialisti che stanno lavorando su che cosa, lo capiremo nei prossimi giorni. Continuando a seguire Jefferson 2, l'arte della svolta, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, la regia oggi a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Filippo Aureggi, la mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, abbiamo una replica a mezzanotte, poi sempre il podcast sul sito della radio e soprattutto una diretta dopo le 4 domani qui su Radio 24, ci sentiamo, resistete al caldo e state bene. Sei,我回家去打坐取舍生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。